E parliamo del secolo dei lumi, in mostra la rubrica di Radio Città Fujiko ne approfitta di questo ospite nella rassegna così contraddistinta e l'arrivo al Museo Davia Bargellini in Strada Maggiore di un lavoro di cui daremo approfondimento con la voce del curatore della stessa sede espositiva. Intanto non solo arte, perché come ho detto i motivi di ricerca nel 1700, il secolo dei lumi, filosofia, letteratura, tutto quello che è uno studio nella scienza. Palazzo Poggi, pensate, nel 1711 si inizia a lavorare e per volere di Luigi Ferdinando Marsigli si inaugura 3 anni dopo l'Istituto delle Scienze. È un'officina di studi, laboratori dotato di moderne attrezzature, di un osservatorio astronomico addirittura che conosciamo noi bolognesi, è la famosa Specola, la Specola, una vasta biblioteca, importanti collezioni del nostro concittadino, il grande Ulisse Aldrovandi, naturalista illuminato, e oltre già 600 tra gli motivi di ricerca nel secolo precedente. Ulisse Aldrovandi alla fine del 600 ha dato il via in ambito naturalista e di botanica a importanti scoperte, studi e scoperte, e 2 accademie che furono create, quella benedettina dedicata alle scienze, vedremo perché si chiama benedettina, e quella clementina per le arti che si evolve poi nel procedimento e nel tempo per arrivare a essere l'Accademia delle Belle Arti. La benedettina si avvale di un importante precettore, il cardinale Prospero Lambertini. Ritratti, e un ritratto, come ho detto, è arrivato a Bologna nella rassegna ospiti. Prima un po' sul panorama del Settecento, no? Che anche Bologna ha visto diversi e diverse protagoniste. Per cui, per quanto riguarda il mondo ecclesiastico, il cardinale Lambertini, interpretato poi da Gino Cervi, portato in scena più volte anche a teatro, una figura fondamentale per quanto riguarda anche uno spazio che dedica a tutte e a tutti. Vedremo le artiste e le scienziate che nella nostra città, sotto questo pontificato, troveranno uno spazio fondamentale. Particolare per quanto riguarda, e perdonate, dirò una parolaccia, però l'ha detta un cardinale, lo riportano i testi, un cardinale che poi sarà papa con il nome di Benedetto XIV, da cui appunto l'Accademia Benedettina nella nostra città. Insomma, al conclave, come ben sapete, sarà un conclave lunghissimo, un conclave abbastanza combattuto, permettetemi il termine, e ovviamente la città di Bologna fa il tifo per il cardinale Lambertini, lo sostiene in maniera molto calorosa, tanto più che prima di partire si avvicinerà a lui un amico, l'amico Davia, che già gli preconizzava l'elezione, vuol fare l'imbocca al lupo e avanti, ora è il momento, cardinale, quindi si avvicina a questo conclave, forza. Beh, e lui risponde con una frase molto importante: se vorranno eleggere un dotto sceglieranno Gotti, se vorranno scegliere uno statista, beh, prenderanno l'Aldrovandi, se poi vorranno un minchione sceglieranno me. Chitarristi ho scelto Wes Montgomery e Grant Green, due grandi ritrattisti, come ho detto, e il cardinale Lambertini, beh, avranno fatto una scelta, come lui stesso si è definito. Le cronache dell'epoca riferiscono che questa frase lui l'abbia detta direttamente in conclave, anzi che abbia usato un termine molto più esplicito rispetto a quello riportato in scena, riportato nel film interpretato da Gino Cervi. Insomma, se l'ha detto un cardinale e poi in seguito un pontefice, mi sono permesso di riportarla anch'io. Quindi, con il consueto spirito felsineo, anche il cardinale Lambertini ha avuto modo di dire la sua, facendo autoironia sulla sua figura, mentre invece il suo pontificato fu assolutamente illuminato. Le donne nello studio, Laura Bassi, che si laureò nell'anno successivo e aprì le porte a una partecipazione fortissima femminile all'insegnamento, Maria Gaetana Agnesi, che non è una via come via Laura Bassi Verratti, no, insegnerà geometria analitica. Clotilde Tambroni non sono delle scuole elementari, sono state intitolate a una grande nello studio della lingua greca. Maria Dalle Donne nell'ostetricia, la presenza di questo energico cardinale, in seguito pontefice, alla guida del clero, prima cittadino e poi più estesa, fu la soluzione anche ai tesi rapporti tra l'aristocrazia e il clero. Problemi per Bologna vennero dopo, dove si ruppe qualcosa, dove le potenze straniere come la Polonia e la Spagna misero occhio su Bologna e su questa città assolutamente prospera e rigogliosa. È certo che alla fine di questo pontificato iniziava anche d'Oltralpe a muoversi un giovanissimo Napoleone, che a sua volta arriverà nei primi dell'Ottocento a Bologna. 1796 finisce un po' il secolo dei lumi e questi saranno poi in seguito i percorsi per la nostra città. Al termine di questo secolo Bologna si trovò in un disordine molto molto importante, ma di questo poi ne parleremo magari in un'altra puntata. Gli scontri tra le aristocrazie, il popolo e la chiesa portarono a dei disordini molto molto inquietanti e importanti. A partire dal 1792 giunsero anche a Bologna le notizie della rivoluzione francese e in molti casi ci furono anche a Bologna delle sollevazioni popolari. Ci furono dei martiri: Luigi Zamboni, Giovan Battista De Rolandis, altre figure che furono insomma portate, fermate e in seguito a tutto ciò poi giustiziate. Mi 1796, pochi mesi prima dell'ingresso delle truppe francesi di Napoleone Bonaparte a Bologna, allora generale, entrò a Bologna, come ho detto in precedenza, alla fine del Settecento, accolto dalle autorità civili e dalla nobiltà. Nel 1796 venne approvata, pensate, a Bologna un'interessante costituzione. In realtà poi non è mai entrata in vigore, ma contiene al suo interno molti spunti sviluppati poi dalla Costituzione moderna della Repubblica Italiana, e siamo nel 1947. E il 7 febbraio 1797, si dice poi Reggio Emilia città del tricolore, sì certo, non voglio certamente, non è un primato che mi interessa particolarmente, ma per le cronache voglio aggiungere che venne approvato l'emblema della Repubblica Cispadana, il tricolore verde, bianco e rosso a Bologna, che tuttora, come ben sapete, sono i colori nazionali. La Repubblica Cispadana venne ammessa il 27 luglio del 1797, mentre la Repubblica Cisalpina è nata il 9 luglio. E questi, insomma, sono i percorsi per quanto riguarda Bologna tra politica, scienza e società, raccontati in due parole all'interno del Secolo dei Lumi. Dal punto di vista artistico, il Settecento è un secolo di grande fervore. Vi cito alcuni artisti che per me sono fenomenali: Carlo Cignani, Marcantonio Franceschini, Donato Creti, Giuseppe Maria Crespi, i fratelli Gandolfi. Ecco, sono delle figure fondamentali per quanto riguarda i percorsi artistici della nostra città. E per i percorsi artistici della nostra città, a breve, dopo un po' di musica, entreremo al museo che rappresenta al meglio questo secolo che ho appena descritto. È in Strada Maggiore, è il Museo d'Avia Bargellini, ideata una sorta di rassegna con scambio, giustamente, con altre sedi espositive. Arriva un ritratto dal Thyssen di Madrid, sede espositiva meravigliosa, è un ritratto di Pompeo Batoni dal Museo Thyssen, come ho detto, a Madrid. Sarà fino al 7 aprile 2024 un'occasione anche per vivere quello che ho appena raccontato in due parole, magari anche in maniera disordinata, ma vi posso assicurare che la sede espositiva, anche solo con l'atmosfera e le immagini, sarà molto molto più chiara. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, si rientra e ne sapremo di più a proposito di questa ospite, perché è l'immagine di una donna, e una donna di Bologna andrà a Madrid, anzi penso che lo sia già, per una rassegna in mostra chiamata Le Maestre. Maestras è la nostra Lavinia Fontana, un prestito appunto che arriva dalla nostra città a Madrid, con protagonisti Giuditta e Oloferne. A tra poco per entrare ufficialmente al Museo d'Avia Bargellini. Trent Green per me è uno tra i più grandi sottovalutati nel mondo della chitarra, tra funk and soul, chitarra jazz. Trent Green lo troviamo in Green Street in trio, accompagnato da Ben Tucker al contrabbasso e Dave Bailey alla batteria. The Grand Dimension, la sua dimensione, questo brano che sto proponendo di rientro dopo la pubblicità alle 8:35 in mostra. Accompagnato da questo suo autoritratto, parliamo invece di un grande ritrattista, Pompeo Battoni. Era chi era Pompeo Battoni? E intanto vi posso dire che era il ritrattista più ricercato nell'Europa del XVIII secolo. Non penso perché avesse fatto dei crimini o fosse colpevole di qualcosa. No, era più ricercato per il suo talento, ovviamente, per la sua arte innovativa, per la sua arte originale. Giunge infatti a Bologna a ricambiare la visita dell'opera che ho detto in precedenza, di Lavinia Fontana, Giuditta con la testa di Oloferne, prestata per la rassegna Maestre, Maestras al Museo Nazionale Thyssen a Madrid. Intanto, attraverso questo passaggio, troveremo, grazie al curatore della parte dedicata alla Bologna, al Museo Davia Bargellini, appunto, per saperne di più, ho contattato Mark Gregory D'Apuzzo prima della conferenza stampa in presentazione di questo lavoro. È un lavoro, come vi ho detto, che appartiene a un percorso artistico nel ritratto con caratteristiche molto originali, e appunto a tale proposito le ascoltiamo tratte da questa breve conversazione che ho tenuto con il dottor D'Apuzzo. E poi è sempre un piacere avere la possibilità di conoscere e di conversare con storici dell'arte, curatori, per conoscere in una sede prestigiosa qui a Bologna, di cui ovviamente vi parleremo, ma adesso è il momento di un ospite. L'ospite che abbiamo protagonista in questa sede ci può dire qualcosa? Buongiorno, oggi presentiamo questo dipinto di Battoni, un dipinto tardo della sua attività, che arriva a Bologna grazie a uno scambio col celebre museo di Madrid, la Thyssen, in quanto appena chiuso questa mostra sulle donne artiste nel Rinascimento, e noi abbiamo imprestato un dipinto molto importante, la nostra Giuditta Oloferne, di Lavinia Fontana. E non è la prima volta, noi la chiamiamo questa esposizione ospiti, che devo dire grazie alla Lavinia Fontana che viaggia in Europa, noi riusciamo a avere questi scambi di opere importanti che altrimenti avrebbero dei costi importanti. Quindi 4 anni fa abbiamo iniziato col Museo di Gand con un ritratto di William Hogarth per la prima volta a Bologna. Battoni per la prima volta viene a Bologna, quindi due grandi protagonisti della pittura del Settecento, perché a tutti gli effetti noi scegliamo dipinti del Settecento perché questo a buon diritto è sempre stato considerato un museo del Settecento bolognese. Quindi anche la sistemazione nella sala, nel salone delle feste, di questi importanti quadri in fondo dialoga con le opere del Settecento, con i Crespi, i Franceschini, che sono già presenti in museo. Per quanto riguarda questa figura protagonista del Battoni, ci può fare un piccolo identikit o dire qualcosa di più? Allora, questa figura intanto è un dipinto tardo, gli ultimi 2 anni della sua attività, ed è un dipinto a mezza figura, perché Battoni, come noto, dipinge soprattutto più di 230 dipinti, ritratti, quasi tutti a figura intera, il famoso ritratto all'eroica. Perché? Perché c'erano questi personaggi molto noti del Grand Tour, soprattutto inglesi, che vengono per il famoso viaggio di istruzione in Italia e si fanno ritrarre, e da lì nasce la storia del ritratto souvenir. Quindi torno avendo in fondo una fotografia antelitera, certo, del loro viaggio. E come si fanno ritrarre? Naturalmente perché all'eroica, soprattutto con delle sculture classiche alle spalle o monumenti dell'antica Roma. In questo caso invece è raro, anche per questo è importante, è una figura innanzitutto italiana, perché come ha recentemente pubblicato Liliana Barroero, che è una delle più grandi studiose di Batoni, nella mostra di 15 anni fa per il terzo centenario di Batoni, che è stata realizzata a Lucca, Batoni tra i 230 dipinti di ritratti che fa, in realtà solo 30 sono dei personaggi italiani. La modalità di ritratto già è particolare. Uno dice sì, ok, un ritratto, c'è un mondo dietro, la figura all'eroica con dietro immagini classiche, l'idea di un souvenir per il Grand Tour da parte di personaggi dell'aristocrazia dell'epoca, e l'originalità tra l'altro di selezionarne alcuni proveniente giocando in casa, insomma, lui molto richiesto all'estero. Queste tra le caratteristiche e la particolarità tra l'altro di questa figura che sarà protagonista nell'ultimo spazio di conversazione nella mostra con l'ospite di Pompeo Batoni 1708-1787, quindi l'ha vissuto quasi per intero, che sarà a Bologna al Museo Davia Bargellini fino al 7 aprile 2024. Ritratto, il ritratto della contessa Maria Benedetta di San Martino, è firmato sul bordo del tavolo, è datato 1785, quindi nel tardo periodo della sua carriera. Batoni scompare nel 1787. Appartiene, come ho detto, alla tarda produzione del pittore. Ne incarna in pieno la bellezza, la grazia, la delicata anche eleganza nello sguardo, non solo negli atteggiamenti e nel panneggio, resa dalle figure femminili dell'epoca. L'identità dell'autore è nota dall'iscrizione in corsivo sotto la firma dell'artista. Quindi vi è anche la firma leggibile. La tela è registrata a Roma in possesso dei discendenti della contessa, poi passò successivamente nella collezione dell'architetto Vici, dove si trovava nel 1964, quando poi fu definitivamente inserita in mostra monografica su Batoni tenutasi a Lucca, la sua città natale. Batoni Tony raffigura la contessa seduta in questo interno scuro. Gli unici riferimenti, se vogliamo, sono gli oggetti come il tavolo con un cuscino rosso sopra questa tazza in equilibrio sul bordo. L'immagine è accattivante per la gamma di colori, i contrasti utilizzati soprattutto per l'abito della protagonista, dipinto in un vivace blu, una delicata gamma di toni. La contessa è raffigurata con questo panneggio brillante, abito scollato e un'acconciatura molto sofisticata, i capelli alti, abbondanti, la decorazione con perle e un ornamento blu. La posa, l'ambientazione e l'acconciatura sono state paragonate a quelle di un altro ritratto tardo Batoni, della marchesa Barbara Durazzo di Brignole, precedente o contemporaneo 1786, ecco, anzi diciamo contemporaneo se vogliamo. Il gesto, poi, quello che mi ha colpito di più, sì, è il gesto della protagonista, che sembrerebbe alludere all'episodio narrato da Plinio il Vecchio. Attenzione, perché il parallelismo è come si è voluta far ritrarre, è molto interessante, in cui Cleopatra, dopo aver scommesso con Marcantonio di essere in grado di offrirgli un banchetto sontuoso spendendo 1 milione di sesterzi, avrebbe preso una perla, no, di inestimabile valore di un proprio orecchino e l'avrebbe sciolta nell'aceto, bevendo poi la miscela stessa. Sapete, Cleopatra, oltre che bellissima, anche molto originale, un po' too much, se vogliamo, perdonate questo termine che non mi appartiene ma che è venuto spontaneo dall'entusiasmo nel descrivere l'episodio raccontato da Plinio il Vecchio. Esattamente, Cleopatra dice: guarda che io ho molto più soldi di te, non credere solo perché fai tanto il fenomeno, tanto più che mi tolgo un gioiello, lo sciolgo nell'aceto e guarda, me lo bevo. E molto importante, regina d'Egitto, la stessa contessa è infatti colta nel ritratto nell'atto di sospendere una grossa perla sopra una coppa, dimostrando così una sorta di indifferenza nei confronti dell'aspetto materiale venale del lusso. Insomma, questa sì è una caratteristica in cui magari ha voluto riprendersi facendo una citazione che apparteneva appunto ai nobili, agli aristocratici del tempo. Cioè, la maggior parte sono inglesi, quindi questa è una rarità, femminili pochissimi, quindi di mezzo busto, non interi come all'eroica. Quindi è, diciamo, una chicca nella chicca, certo, in fondo, perché una è di una particolarità. Esatto, è una rarità, è una rarità. E anche perché c'è un motivo, la Liliana Barovera lo spiega. E gli italiani non pagavano subito, mentre i grandi nobili uomini, soprattutto i milord inglesi, ovviamente avevano possibilità illimitate. E quindi è questo il motivo per cui commissionano queste opere, ecco, perché la grande disponibilità economica. Certo, la protagonista ritratta allora? Ecco, la protagonista ritratta naturalmente è Maria Benedetta di San Martino. È una nobildonna. Una nobildonna, sì, ecco, naturalmente per quanto riguarda i ritrattati, la maggior parte, per quanto riguarda l'Italia, sono aristocratici, ma soprattutto i personaggi della corte pontificia, quindi papi, arcivescovi e parenti. Poi Bologna ovviamente ha una... Esatto. Questo è... Cleopatra è impegnata nel dimostrare a Marcantonio di non pensare di essere lui il più fenomeno, sciogliendo un suo gioiello all'interno di una coppa d'aceto, poi si beve tutto ciò addirittura per dire: guarda. Certo che se Roma avesse dato uno sguardo più attento all'Egitto, all'Oriente, l'ha fatto per l'Oriente, ma anche per quanto riguarda la cultura in Egitto, i percorsi, piuttosto che avere più attenzione per il mondo definito allora dei barbari, magari gli equilibri del presente sarebbero diversi, chi lo sa. Io Io sono un tifoso di Cleopatra e comunque sì, ha simpatia poi per i grandissimi del passato. Un ritratto di Pompeo Batoni 1708-1787 dal Museo Thyssen di Madrid fino al 7 aprile, ovviamente 2024, Museo Davia Bargellini a Bologna. Ho voluto portare questa protagonista in mostra per la rassegna ospite perché vi invito caldamente a una visita al Museo Davia Bargellini per vivere tutto ciò in maniera non solamente dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista soprattutto emotivo. Grazie per l'attenzione, il Breakfast Club ritorna domani, vi porta in scena con quasi un triplo appuntamento come di consueto, per cui tra poco avremo l'Edipeo Enciclopedico Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, il Grande Rock con Angela Zocco e Andrea Gozza, dal vostro William Piana un caloroso abbraccio, un ringraziamento per aver fatto colazione con il Breakfast Club di Radio Città Fuggico. L'appuntamento alle super mattiniere, i super mattinieri e alle ore 7 per la nostra vigilia di weekend. Buona giornata, ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.